I denti del giudizio costituiscono un bell'argomento per sfatare immagini edulcorate dell'evoluzione. Ce ne spuntano quattro, non servono alla masticazione, si guastano, fanno un male becco e sono destinati alla pattumiera del dentista. Ma perché diavolo ce li abbiamo? Chi pensasse all'evoluzione come ad una sorta di macchina perfetta che fa sparire quello che non serve e fa apparire soltanto quello che serve, subirà forse più di una frustrazione. È vero che resiste l'adatto, sì, ma siccome l'adatto è pur sempre frutto di un giudizio a posteriori, ci portiamo appresso anche tanta roba che, se è servita una volta, non è detto che serva ancora. E deve essere questo il caso dei denti del giudizio, la cui inutilità sembrerebbe risultato del fatto che, da quadrupedi che siano stati, siamo diventati quel bipede eretto e signorile in cui tutti amiamo riconoscerci. Nel passaggio dalle quattro alle due zampe, la mascella si è accorciata e le simmetrie dentarie sono andate a farsi benedire. Presumibilmente i denti del giudizio una volta servivano, e come, mentre oggi no. Ma prima che le istruzioni relative alla loro fabbricazione vengano cancellate dai registri del DNA, diciamo così, ce ne vuole. Anche lì è peggio dei ministeri. La burocrazia darwiniana è lenta. L'ultimo mio dente del giudizio mi ha lasciato soltanto pochi giorni fa. Si era guastato e al mio dentista, che aveva profetizzato da anni l'evento, non è parso vero procedere. Così ho potuto ripassare quel che so in materia di avulsioni. Nota bene, si dice avulsioni, mica estrazioni. Allora, punto primo, si fa la radiografia. Si verifica la piega che il dente ha preso, perché ci sono denti del giudizio che non fanno affatto giudizio e che si sviluppano nei modi più tortuosi. Il mio era ben messo. Allora si passa all'anestesia. L'anestesia la si fa in due fasi. La prima può far risparmiare la seconda, nel caso il paziente deceda sul colpo. È raro, ma può accadere. Si chiama shock anafilattico, come tutti ben sanno. Visto che sono sopravvissuto, il mio dentista mi ha potuto dire con soddisfazione che ora le anestesie le fanno senza adrenalina, e ciò sembra che per il cuore sia una pacchia, e mi rimane abbastanza poco comprensibile il perché l'adrenalina ce la mettessero prima, visto che per il cuore non sarebbe stata una pacchia. Iniettatomi dunque anche il resto. Lui ha detto: speriamo bene. E io, con il massimo di professionalità che mi è riuscito, ho detto: qualcosa che non va? Lui allora mi ha spiegato che non è mica semplice azzeccare il sito giusto in un dente del giudizio, e che nel caso io sentissi poi dolore, avrei fatto bene ad alzare una mano, tanto per avvisarlo che lui avrebbe dovuto farmi un'altra iniezione. Poi si aspetta. E si parla del più e del meno. Si parla del più e del meno fino a che ce la faccio a parlare, perché pian piano la lingua si appesantisce e sulla guancia si allunga un leggero pizzicore, segno che da quelle parti quel che rimaneva di vivo, se vivo era, sta addormentandosi. È il momento in cui il dentista può intervenire con le due operazioni decisive, la lussazione e l'avulsione propriamente detta del dente, che avvengono, due operazioni che avvengono servendosi di due strumenti distinti. Siccome oltre al crack della lussazione e alla sensazione che mi si volesse estirpare intera la mandibola non c'è stato bisogno di altre iniezioni, il dente è venuto via tutto in un colpo solo, e il mio dentista ha potuto dedicarsi a ricucirmi con ago e filo il buco vuoto rimasto. S'usa così. Quando lui ha detto può chiudere, io avrei voluto fargli i miei complimenti e dirgli com'era stato bravo. Ma invece, lo sa Dio perché, con tutta la fatica del caso, gli ho detto: siamo stati fortunati. Lui si è fermato un attimo dal suo traffichio intorno agli strumenti e mi ha detto: se mi permette, sono stato bravo io. Allora non ho potuto fare a meno di chiedergli: mi scusi, ma se io le avessi detto che era stato davvero bravo, lei poi mi avrebbe detto che eravamo stati fortunati? E lui, onestamente, sì, credo di sì, mi ha risposto. Così vanno le cose. Non è mica detto che noi si finisca col dire poi quel che si era pensato di dire. Lui magari quando l'avulsione volgeva al termine, lui magari ha pensato: siamo stati fortunati. Poi io ho finito con il dire una cosa e lui allora spiritosamente e determinatamente ha scelto l'alternativa. Perché alla fin fine gli atteggiamenti a disposizione in questi casi sono due. O evidenzi il merito e dunque l'operare volontario di qualcuno, o evidenzi la fortuna, la casualità delle felici coincidenze che nulla ben inteso tolgono al merito, ma per così dire lo lasciano implicito, non detto. Il nostro stile di vita e l'umore che ci accompagna dipendono spesso dall'applicazione dell'uno o dell'altro atteggiamento. Le cose vanno meglio comunque se nel momento in cui lo cambiamo, questo atteggiamento, rimaniamo consapevoli di quanta parte nella faccenda tocchi a noi e quanto poco tocchi ad altro o ad altri. Anche a proposito dell'evoluzione e della presenza molesta dei denti del giudizio,